GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Come è accaduto spesso in questa settimana, ripartiamo da Cipro, dove la trattativa tra il governo dell'isola e la Russia è saltata. Mosca non è interessata alle proposte di Cipro per correre in aiuto all'economia dell'isola. Oggi si riunisce il Parlamento, ma noi sentiamo il collegamento che ha realizzato per noi Roberto Bongiorni. Sì, buongiorno a tutti. Il portavoce del governo cipriota ha lanciato un allarme che preoccupa molto. Ha detto: nelle prossime ore si deciderà il destino di Cipro, aggiungendo: qualunque soluzione sarà dolorosa. Dunque, dopo il fallimento delle trattative con la Russia, a cui il governo cipriota sarà rivolto per ottenere prestiti, Nicosia sta ultimando l'ultimo piano per raccogliere quei 5,8 miliardi di euro e ottenere così quel vitale prestito di 10 miliardi dall'Eurogruppo e dal Fondo Monetario Internazionale, indispensabile per evitare il default. Tra gli assets che dovrebbero fare da garanzia sono incluse le riserve auree della Banca Centrale Cipriota, le proprietà della Chiesa, i fondi pensioni, anche forse i diritti di sfruttamento dei giacimenti di gas futuri, ma è un piano ancora confuso. Diciamo che l'annuncio che ha fatto più notizie, forse quello più doloroso, è lo smantellamento, qui la chiamano fusione, di fatto della seconda banca del paese, la Popular Bank, una delle due banche più esposte. Il governo prevede di far confluire i depositi sotto i 100.000 euro nella Bank of Cyprus e i depositi sopra questa quota in una bad bank, ma lasciando in grave difficoltà i cittadini ciprioti. Il tempo dunque stringe. Martedì dovrebbero finalmente riaprire le banche e si teme che i ciprioti si riversino in massa per svuotare i loro depositi, tanto che l'Eurozona avrebbe suggerito a Cipro di trovare misure straordinarie di contenimento dei capitali per evitare la fuga dei depositi. E da Nicosia è tutto. La crisi dunque che ha colpito tutta l'Europa, ma alcune regioni evidentemente più delle altre. Allora la nostra Anna Marino ha fatto il punto analizzando e leggendo i dati presentati ieri da Eurostat. Tra le 41 regioni europee che superano l'asticella del 125% del PIL espresso in termini di potere d'acquisto dei loro cittadini, 8 sono in Germania, 5 nei Paesi Bassi e in Austria, 4 in Belgio, 3 in Spagna, Italia e Regno Unito, 2 in Finlandia e Svezia, una ciascuna in Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Francia, Slovacchia e Lussemburgo. Per l'Italia la prima classificata è la provincia autonoma di Bolzano, con una media del 146% del PIL pro capite regionale, e si conferma tra le 20 regioni più ricche dell'Europa. Europa 27 e la zona più ricca d'Italia. Seguono Valle d'Aosta col 133% e Lombardia col 132%, mentre restando nel bel paese la Campania è la regione più povera d'Italia con una media del 64% del PIL pro capite regionale. Seguono qui la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Basilicata. Facendo i confronti con i vicini d'Europa, le regioni povere d'Italia sono tra le 68 regioni europee sotto il livello del 75%, raggiungono i livelli della Bulgaria che con la zona di Severo-Zapaden è la maglia nera, seguita da Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Ungheria e Bulgaria. Mentre la zona più ricca dell'Europa si conferma Londra. La capitale inglese svetta con il 328%. Un buono stacco da Lussemburgo al 266%, ma si difende al terzo posto con il 223% anche Bruxelles. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. L'Italia è tra i paesi UE maglia nera che, sotto la pressione della crisi tra il 2010 e il 2012, hanno effettuato i tagli più pesanti al bilancio della scuola. È quanto emerge da uno studio realizzato a cura della Commissione europea. A ridurre gli investimenti nell'istruzione sono stati 20 tra paesi e regioni dell'UE, ma a superare quota 5% dei tagli sono stati solo Italia, Portogallo, Cipro, Ungheria. Tagli inferiori, ma comunque significativi per Irlanda, Spagna e Slovenia. E poi c'è chi anche in tempo di crisi aumenta gli investimenti. In questo caso bisogna guardare a nord, ma non solo. Dunque Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Austria, ma anche la piccola Malta. Bene, con questo è tutto. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento con GR Europa torna lunedì, come sempre, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.